Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Buongiorno cari amiche e cari amici, il grande storico britannico Eric Hobsbawm, che è morto da poche settimane, definì il Novecento il secolo breve. È stata una definizione fortunata, ma che forse contraddice con le conseguenze e l'impatto che quel secolo ha avuto nella vita di tutti noi. Il Novecento, un secolo contraddittorio e grande, ricco di eventi e di rivoluzioni, che vi presento oggi in alcune interpretazioni. La prima di queste è l'escursione che in quel secolo ci offre Giampiero Mughini con il libro Addio, gran secolo dei nostri vent'anni, città, eroi e bad girls del Novecento, è pubblicato da Bompiani, 386 pagine, 17 euro. Il libro di Mughini inizia con un capitolo autobiografico nel quale l'autore racconta la sua esperienza di ragazzo di provincia, animato dal demone del giornalismo e dalla passione per la politica che lo porta presto a lasciare Catania per approdare a Roma. Qui Mughini affina la propria visione del mondo, imbocca una strada fatta di autonomia e di anticonformismo rispetto alla vulgata ideologica del tempo, che allora era piuttosto simpatetica verso la sinistra e il comunismo, e da qui la narrazione si sposta rapidamente su un altro piano di ricostruzione storica di alcuni personaggi e periodi della storia europea a partire da Trotsky. Ma nel libro di Mughini non si parla solo di storia, come avete sentito dal sottotitolo, si parla molto di libri, di oggetti, di donne, come ci spiega adesso l'autore. Buongiorno a Giampiero Mughini. Ben trovato. Allora, Giampiero Mughini, questo suo libro comincia come una biografia e ben presto scivola nell'essere una biografia di un secolo, una biografia di un periodo. Come mai questo scarto così immediato e improvviso nel suo libro? Ma forse non è uno scarto, perché quando è più marcatamente biografico potrebbe essere la biografia mia, come di tanti altri figli del Novecento, di tanti altri ventenni degli anni Sessanta che entrarono nella società, nella vita, nella discussione culturale in quel momento meraviglioso in cui il Novecento, dimenticando le tragedie della Seconda Guerra Mondiale, sembrava creasse un mondo fatto di fantasie, di libertà e di redditi nuovi, ed era largamente così, perché gli anni Sessanta sono stati una galoppata verso nuove libertà, nuovi redditi, nuove fantasie, nuovi modi di comunicare, un nuovo costume, una grammatica nuova persino nei rapporti tra gli uomini e le donne, la moda per le strade, il rock e le librerie dove i libri erano a pile e i redditi che aumentavano di anno in anno, insomma. Ecco, poi questa promessa lei scrive improvvisamente si è interrotta. E improvvisamente è stata una china iniziata in parte negli anni 90 con lo spegnersi del Novecento e concretatasi paurosamente in questo terzo millennio. Ecco, il suo libro, il sottotitolo è Città, eroi e bad girls del Novecento. Allora, come città al centro c'è Parigi, che secondo lei è stata al centro di tutto quello che è successo nel Novecento, di quello che è successo di più importante. Beh, in realtà Parigi è la città capitale del secolo, per la prima metà del secolo. Io racconto, appunto, perché mi sembra uno straordinario teatro, uno straordinario palcoscenico, la Parigi che viene occupata dagli Unni, che viene occupata dalle armate tedesche che avevano stravinto la Seconda Guerra Mondiale, e a quel punto la città capitale del secolo, la città che vantava le più belle donne, i più bei libri, i più bei vini d'Europa, diventa un campo d'azione della Gestapo, della persecuzione degli ebrei, delle canaglie del collaborazionismo, ed è un tempo, e a me interessa molto questo, in cui la linea divisoria tra gli eroi e le canaglie si fa sottile, perché ecco, il libro è tutto un'antiapologia della distinzione molto frequente ai giorni nostri, manichea, tra il bene tutto da una parte e il male tutto dall'altro, la vita, la società, la realtà è molto diversa, è fatta di zigzag, di avvicinamenti, ripensamenti. E il Novecento è questo secolo, è il secolo in cui in tanti sono stati comunisti e poi sono divenuti anticomunisti, eccetera, eccetera. E di questa complessità si ha anche una testimonianza nelle sue pagine sul caso Trotsky. Trotsky è un personaggio di cui nessuno parla più, ma è stato certamente uno dei 5 o 10 personaggi che hanno fatto la storia del Novecento, perché se la rivoluzione bolscevica ha vinto nel 1917, oltre che per le circostanze che sono durate un attimo e che erano eccezionalmente favorevoli, era perché c'erano gli uomini che hanno acciuffato queste circostanze: Lenin e Trotsky. Trotsky era un tribuno assolutamente indimenticabile, un uomo d'azione, uno scrittore, un uomo d'azione. Poi Trotsky viene sconfitto politicamente, annientato politicamente, buttato in esilio dal rivale Stalin e poi fatto assassinare. Ebbene, qual è il dramma di Trotsky? Che secondo me non è mai stato raccontato bene. Che Trotsky, buttato via dall'URSS, solitario, gli ammazzano tutti gli amici, eccetera, continua a credere nel comunismo, continua a credere in un modo visionario, metafisico, ossessivo, pensa che il comunismo sia una bella cosa purché fatta da lui. E invece non capisce che il comunismo è esattamente quello che ha realizzato Stalin e che probabilmente avrebbe realizzato Trotsky se avesse vinto. Tant'è vero che nel 1921, quando si alzano in piedi, si sollevano i marinai di Kronstadt, che 4 anni prima erano stati l'architrave della rivoluzione, Trotsky li tratta come Stalin avrebbe poi trattato i suoi avversari. Però ecco, non vorrei che l'ascoltatore avesse l'idea che qui si stia parlando di cose remote. Infatti, poi questo libro nasce dal presente, nasce da una passione negativa verso il presente, da un disagio verso il presente, nasce dall'angoscia per le sorti della democrazia italiana. Di questo stiamo parlando. Io racconto la tragedia della democrazia francese, della Troisième République, la tragedia del 1940, ma ho in mente la tragedia della nostra democrazia, oggi che gran parte della nostra vita pubblica si è trasformata in cronaca nera. Una delle pagine più drammatiche di questo suo libro, che riguarda la nostra generazione, è proprio l'esplosione del terrorismo, che in qualche misura si ricollegava anche a Trotsky. Beh no, adesso non attribuiamo a Trotsky, naturalmente i gruppi terroristi sbandieravano paternità, naturalmente, album di famiglia, ascendenze, molto, molto era il partigianato rosso cui loro facevano riferimento, ma la cosa rilevante di quella roba lì, di quel racconto, è i terroristi, gli assassini nacquero tra noi. Lei ricorda che a lungo si parlò di sedicenti, brigate rosse, che non erano quelle cose lì, bensì agenti della CIA o del Mossad. Invece erano i nostri compagni di generazione. Io non dico che li conoscessi tutti, ne conoscevo tanti, li ho visti, ho visto i loro movimenti e i loro gesti poco prima che impugnassero le pistole e dessero la morte a fin di bene. E questo è stato forse il lutto più grande della mia generazione, quella che l'ha lacerata per sempre, insomma. Il Novecento è stato anche un secolo di oggetti, e lei li descrive e ce ne fa vedere anche le immagini. Tutti gli oggetti che ci circondano sono nati nel Novecento, è nato nel Novecento la macchina fotografica, il cinema, il televisore, il giradischi, ed è nato nel Novecento quell'oggetto a quale io non ho dedicato un capitolo perché non ne sono capace, il computer, ma se c'è un figlio del Novecento è Steve Jobs. Certo, e quindi nel preparare un aggiornamento per i prossimi secoli in cui lei scriverà, cosa pensa che sarà la differenza fondamentale tra il Novecento e gli anni successivi? Da quello che stiamo vedendo in questi mesi e in queste settimane, noi stiamo tornando alla barbarie primitiva. cognitiva. Se lei guarda i giornali di questi giorni e legge le cronache del nostro paese, sono le cronache della barbarie, della giungla. Non so, devo mettere in fila nomi, episodi, consigli regionali, consigli provinciali? No. Li abbiamo presenti. Grazie a Giampiero Mughini, autore. A lei, carissimo. Autore di Addio, Gran Secolo dei nostri vent'anni. Buona domenica. Buona domenica. Ben ritrovati con Salvatore Carrubbe. Il Novecento è stato un secolo anche di grandi miti. Adesso parliamo di due di questi miti. Il primo sono i Beatles, che troviamo nel libro di Andrea Kerbacher e Alberto Tonti, Let It Beatles, pubblicato da Schirà, 78 pagine, 13 euro. Questo libro, che secondo gli autori è il 601esimo scritto sui Beatles, nasce dall'esperienza del concerto che Kerbacher aveva organizzato a Roma per Telecom nel 2003, il grande concerto ai Fori Imperiali di Paul McCartney, ed è pubblicato in occasione del 50° del primo disco dei Beatles, Love Me Do. L'altro autore è un grande esperto di musica, e questo è un libro insolito, costruito attraverso uno scambio epistolare tra i due autori, ricco di illustrazioni, che ci illumina sulla fascinazione che questo gruppo ha esercitato su intere generazioni. Un fascino che abbiamo avuto confermato pochi mesi fa alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Londra, che qui così Kerbacher descrive. Quello che mi incuriosisce nella storia dei Beatles è la loro dimensione mitica. Lo scrivo ora sull'influenza dello spettacolo che ho appena finito di guardare in TV. Paul che conclude la cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici di Londra, con una faccia quasi identica ad allora, miracoli anche del lifting però, e la voce invecchiata solo di un filo. Lui è stato il suggello di uno spettacolo che ha messo insieme i miti dell'Inghilterra moderna. Su tutti lui, Paul. Non con una canzone delle sue, ci mancherebbe. Naturalmente con una di quelle del periodo beatlesiano. Hey Jude, per la precisione. E alla fine delle famosissime strofette, tutti a cantare in coro il ritornello. Quando dico tutti, intendo proprio tutti. Gli atleti in tuta e il principe Filippo, che potrebbe essere il loro nonno di 90 anni. Gli austeri capi di Stato con le mogli e i flemmatici cittadini londinesi. I membri del comitato olimpico nelle loro divise severe e i giornalisti senza cravatta. Tutti lì, le bocche aperte e le braccia alzate, come adolescenti al primo concerto. E lui in piedi, in mezzo al palco gigantesco, abbandonati piano e microfono, a dirigere il coro. L'altro grande mito del Novecento che vi presento è Picasso, in un libro scritto da un ex bambino per bambini. Il confettino. Il libro è di Anthony Penrose e si intitola Il bambino che morse Picasso, è pubblicato da Gallucci, 48 pagine, 14,50 euro, tradotto da Franco Nasi. L'autore racconta appunto dell'esperienza che ebbe da bambino quando vedeva circolare per casa Picasso, che era molto amico dei genitori, e nel libro ricostruisce quegli anni, quegli incontri, il sentimento che era nato con Picasso. Abbiamo tante foto e anche alcune spiegazioni su come nascevano le opere di Picasso, alcune spiegazioni appunto per i più piccoli. L'autore ebbe la fortuna di conoscere Picasso quando era bambino, perché il grande artista frequentava regolarmente i propri genitori, e nel libro ci ricorda quegli anni. Abbiamo tante immagini di quegli incontri e soprattutto abbiamo le fotografie delle opere e la spiegazione di come quelle opere nacquero, quindi una guida anche per i più piccoli per accostarsi a Picasso. Su Picasso vi ricordo che è in corso a Palazzo Reale a Milano fino al 6 gennaio una grande mostra antologica organizzata da 24 ore cultura, una società dello stesso gruppo al quale appartiene questa radio, e in questa occasione ho chiesto a Marco Carminati di illustrarci un quadro che possa interessare soprattutto i visitatori più giovani. Ciao Salvatore. Beh, questa mostra ha moltissime opere che potrebbero interessare un pubblico di giovani, soprattutto i bambini, perché Picasso è uno di quegli autori magici che colpisce le generazioni sempre più nuove. Io ho avuto la possibilità con le mie figlie di vedere quanto sono attratte dalle opere di Picasso, perché sono opere piene di fantasia, non sono opere facilmente scontate, e quindi anche la mostra di Milano è piena di tappe dove noi potremmo posare l'occhio insieme ai bambini. Mi immagino per esempio gli animali, la famosa capra in bronzo di Picasso, gli animali che Picasso amava dipingere velocemente sulle ceramiche come le palome, cioè le colombe. Ma io vorrei, con questo pubblico di giovani, soffermarmi su un ritratto che è uno dei più difficili di tutta la mostra, cioè il ritratto che Picasso fece in pieno periodo cubista, siamo agli inizi del Novecento, a una persona che lui stimava moltissimo, il suo mercante d'arte che si chiamava Vollard. Perché mi soffermo davanti a questo quadro? Perché questo quadro è un quadro irriconoscibile, nel senso che nessuno, se guarda in modo superficiale, si rende conto di essere davanti a un ritratto. Cos'è successo? Allora, si spiega a questi ragazzi che Picasso è stato uno straordinario innovatore. Aveva capito, e anche prima di lui l'avevano capito alcuni artisti, soprattutto gli esponenti dell'impressionismo francese e in particolare Cézanne, che è stato l'ultimo grande esponente, che le opere d'arte erano fatte di punti o comunque di figurine geometriche, dei piccoli quadrati che giustapposti uno all'altro davano la figura. Le leggi di ottica garantiscono tutto ciò. Basta prendere una piccola lente di ingrandimento e puntarla su una fotografia di un giornale che noi vediamo che la fotografia è fatta tutta di puntini che diventano molto stretti se la foto è scura o si diradano se ci sono i punti chiari. Picasso aveva compreso, gli artisti avevano compreso, che l'anima della pittura era fatta da queste microparticelle di colore. E allora cosa fa? Picasso prende un ritratto e scompone queste parti, le scompone un pezzo per pezzo, quindi il ritratto viene realizzato come se fosse una serie di tesserine. Non solo le scompone, ma si prende la libertà di ricomporle come vuole lui, e fa un'operazione naturalmente che è un'operazione mentale. Quindi Picasso ci insegna sostanzialmente che per guardare un quadro bisogna sì usare gli occhi, no? Ma non basta l'occhio per decifrare quello che si vede, è molto importante che intervenga anche il pensiero e in particolare l'immaginazione. Quindi questo è un dipinto che colpisce moltissimo perché bisogna stare lì e decifrarlo, e poi piano piano si comprende dove sono gli occhi, piano piano si comprende dove è il naso, piano piano si comprende dove sono le labbra. La cosa divertente per dei ragazzi è che questa operazione possono farla anche loro, naturalmente non sul quadro della mostra dove non si può fare assolutamente niente se non guardare, ma magari tornando a scuola, in classe, con i compagni, con gli insegnanti e i professori, provare a fare lo stesso procedimento che faceva Picasso, magari scattando una fotografia al proprio compagno di banco, e appunto divertirsi a ritagliarla in tanti pezzettini e rimontarla insieme. Facendo così non avete fatto altro che fare un quadro del cubismo analitico, come dice la critica d'arte, cioè avete imitato pienamente il genio di Picasso. Grazie Marco, vi ricordo che potete ancora partecipare al concorso per vincere 6 biglietti, 2 per coppia, per una serata speciale dedicata agli ascoltatori di Radio 24 il 24 ottobre. Basta che scriviate qualche riga su che cosa vi aspettate dalla mostra di Picasso al numero 349-238-6666. E a questo punto ringrazio Luca Cremonesi in redazione e Valeria Bernardi in regia. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica unlibro@radio24.it e il nostro sito www.radio24.it, dove potete sempre ascoltare questa e tutte le altre nostre trasmissioni. Vi auguro buona domenica e vi do appuntamento la settimana prossima.